8. Ascolta e controlla. 1. Questo è un bel libro. Questi sono dei bei libri. 2. Quello è un bel albergo. Quelli sono dei begli alberghi. 3. Quegli attori sono straordinari. Quell'attore è straordinario. 4. Quello è uno studente intelligente. Quelli sono degli studenti intelligenti. 5. Quegli scrittori sono famosi. Quello scrittore è famoso. 6. Quel signore è straniero. Quei signori sono stranieri. 7. Quello è un bello zaino. Quelli sono dei begli zaini.